Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccoci insieme. Prima di sentire i titoli del giorno, Peter Bescapè, già la parte tecnica, è prontissimo. Come sempre Laura Manossi in redazione. Peter, partiamo. Non gettare la spugna, getta la sigaretta. Allergie difficili, un esame in più per vederci chiaro. Shatsu in acqua. Iniziare facile, smettere difficile, riprendere facilissimo. Puntualmente torniamo a parlare di fumo con la speranza di convincere qualcuno a smettere, ma soprattutto per aiutare chi ha ripreso a fumare a non darsi per vinto. Quindi la sfida di oggi è, come appunto abbiamo messo nel titolo di oggi, non gettare la spugna, getta la sigaretta. Mi rendo conto che è più facile dirlo che farlo, ma quelle che noi consideriamo fallimenti sono invece, dicono gli esperti, da leggersi come delle tappe di un percorso tortuoso molto impegnativo, un po' come un sentiero di alta montagna che però sa regalare a chi ha il coraggio, la costanza, la preparazione per percorrerlo fino in fondo grandissime soddisfazioni. Quindi diteci a che punto di questo percorso siete, se siete all'inizio, pieni di buoni propositi, avete bisogno di qualcuno che vi dica dai bravo, sono con te. Se siete a metà e iniziate a sentire la fatica, vorreste un aiutino per andare avanti. Se invece siete caduti, ricaduti nuovamente, quindi siete un po' sfiniti, demoralizzati, vi siete messi in disparte, avete accantonato un po' l'idea di continuare, o invece siete tra quelli che ce l'hanno fatta, siete arrivati in cima. Allora, cosa vedete da lassù? Che aria si respira? E soprattutto, da quanto tempo siete lì? Avete un po' paura di rotolare giù? Giro subito la domanda a Carmen Covito, che è in linea con noi, scrittrice, autrice per Mondadori dell'arte di smettere di fumare, tra parentesi controvoglia, che ha raccontato proprio in questo libro passo passo le difficoltà che ha incontrato per trasformarsi da fumatrice incallita in ex fumatrice. Carmen, buongiorno, buongiorno a te, benvenuta. Allora Carmen, senti, tu sei arrivata in cima e devo dire che sei lì da parecchi anni, hai quasi costruito una casa, insomma. Ma io ho smesso nel 2004. E sono ancora imperterrita. Cioè ieri sera mi sono sottoposta a una prova di quelle del 9, nel senso che sono stata a cena con il mio ex marito, che è un fumatore incallito che non ha nessuna intenzione di smettere. E siamo stati nella zona del ristorante destinata ai fumatori. Sì. Ecco, io per fortuna c'era un'aria condizionata abbastanza sostanziosa e quindi non ho soffocato. Ecco, però sono stata molto contenta di essere lì e di non avere la minima tentazione di allungare la mano e arraffare le sigarette che avevo davanti al mio naso sul tavolo. E dire, insomma, faccio un tiro. Niente. Niente. Carmen, ti racconterai nel corso della trasmissione come si fa a tenere duro e noi proveremo un po' proprio con il tuo aiuto e con l'aiuto di tanti altri amici, esperti che ci verranno a trovare nel corso della trasmissione, due sono già qua in studio con me, ad aiutare chi vuole smettere, chi ha smesso e ci è ricaduto, chi proprio non ha magari proprio neanche l'idea, può succedere, no? Tu mi dicevi appunto il tuo ex marito fumatore incallito. Intanto, certo, voglio salutare gli ospiti di oggi, abbiamo come sempre il dottor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori, centro, no? Buongiorno a tutti, saluto particolare a Carmen. Non poteva mancare, dottor Boffi. Certo. Da quanto tempo è che noi ci conosciamo e facciamo queste reality, incontri, forum. Sul sito di Essere Benessere? Più di 2 anni, devo dire che mi stupisce che non vi siate ancora annoiati, ma io sono qua, quando mi chiamate vengo volentieri. Qua in studio con noi abbiamo la dottoressa Fabia Schoss, buongiorno. Buongiorno. Psicologa, psicoterapeuta, specializzata in terapie breve e tecniche di rilassamento, anche lei ci darà una mano, lei deve aiutarci a credere che possiamo farcela o rifarcela. Ci proveremo. Allora, dottor Boffi, mettiamoci in marcia. E in fondo ho pensato al percorso che uno deve fare quando decide di smettere di fumare, come una sorta di sentiero. Me lo vedo un sentiero di montagna. Lei, certo, in fondo qua potrebbe fare la guida alpina oggi. Ma intanto grazie per il complimento, ci posso provare e faccio i complimenti Nicoletta per questa metafora, la trovo molto azzeccata. Poi adesso siamo tutti più o meno in partenza, stiamo pensando alle vacanze, per cui una bella vacanza in montagna può essere allettante. Però è un confronto che anch'io faccio a volte con i fumatori, quando dico che smettere di fumare può essere definito un percorso. Quindi c'è una partenza, una data che bisogna stabilire, concordare assieme, e poi però questo percorso a volte è un po' faticoso, un po' diciamo a rischio di cadute, di imprevisti, e quindi è meglio... Carmen Covito l'ha definito un calvario, vero Carmen? Più che un percorso. Beh, io sono stata più buona, tu l'hai definito un calvario. Beh, mi sembra esagerato, dai, io penso che facendo questo percorso impegnativo ma bello, verso la libertà, appunto, verso la togliersi questa dipendenza, è meglio farlo ben attrezzati, no? Sempre proseguendo con questa metafora, con le picozze, con scarponi, con gli occhiali da sole per non farsi abbagliare magari da false illusioni iniziali. E quindi se con la scorta di questi piccoli strumenti da poter usare anche al bisogno, ma soprattutto nei primi mesi, ecco, perché poi insomma non drammatizziamo, la sindrome di astinenza dopo 2 o 3 mesi nella maggior parte dei casi non c'è più, e si può benissimo smettere di fumare per sempre senza poi grandissimi o riprovare a farlo, no? E non rischiare poi di ricadere, che questo è un altro grosso problema di cui poi magari parleremo. Ma noi oggi vogliamo occuparci di tutti, ma in modo particolare di chi ha provato, è riuscito, certo, e invece ha riacceso un'altra sigaretta. Dottoressa Schoss, tutti i cambiamenti del nostro stile di vita, da quando ci mettiamo a dieta, quando facciamo attività fisica, quando smettiamo di fumare, sono dei cambiamenti importanti. Noi spesso li sottovalutiamo. Sono dei cambiamenti molto importanti e stressanti, perché dobbiamo cambiare i nostri automatismi. In fondo noi ci muoviamo in maniera molto abitudinaria, e quindi quando decidiamo di cambiare è un grande momento, perché decidiamo di prenderci cura di noi. È un momento di gran cuore verso di noi. Il dottor Boffi diceva è importante scegliere una data, lei concorda? Assolutamente. E anche se dobbiamo continuare a ripetere, secondo me, che siamo tutti diversi. Allora, per alcuni sicuramente, diciamo che in generale è giusto dire quel giorno basta. Però ci sono persone che magari hanno, soprattutto noi adesso parliamo di chi è ricaduto, che possono avere l'ispirazione all'improvviso. E vanno bene anche loro, chiaramente. Carmen, tu l'hai avuta all'improvviso, per chi non avesse letto il libro, nel tuo libro decidi dunque, passo passo, ma che cosa ti ha fatto prendere là? Io penso che oltre ad essere diverse le singole persone, si è diversi anche nel corso del tempo. Perché io per esempio avevo provato a smettere diverse volte, e una volta o due c'ero anche riuscita, ma ero ricaduta molto facilmente. Mentre invece l'ultima volta ero veramente decisa, cioè ero cambiata io, e quindi la decisione è stata abbastanza facile, ed è stato facile non ricadere. Quindi secondo me bisogna anche capire qual è il momento giusto per riuscire a farlo senza problemi eccessivi. Magari potrebbe essere proprio oggi. Dottoressa, certo, Schoss. Ma se noi parliamo di persone che hanno già provato, io consiglierei una cosa. Cioè, quando abbiamo la volta precedente riacceso la sigaretta, proviamo a pensare che cos'era successo, qual era il momento, perché è successo, insomma. Cioè, raccontatecelo, mi sembra un ottimo spunto. Raccontatecelo. Intanto il nostro numero verde è a vostra disposizione, come sempre, 800 24 00 24. Abbiamo la nostra guida alpina, il sostegno psicologico della dottoressa Fabia Schoss, l'esperienza di Carmen Covito, che sicuramente può aiutarci. I messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Parliamo di allergie, quindi di un problema molto diffuso. A soffrirne è un italiano su 4. Starnuti, lacrimazione, naso che cola, gli occhi rossi, insomma i sintomi li conosciamo tutti e molto bene, ma a volte individuare la causa o le cause precise può essere un po' complesso, richiedere, come si dice, ulteriori accertamenti. Per questi casi difficili, quindi ad esempio per chi soffre di allergie complesse come quelle crociate, la ricerca mette a disposizione un nuovo test che rappresenta sicuramente ovviamente, un passo avanti nella diagnosi delle allergie. Ne parliamo oggi con il dottor Antonio Tiri, che è responsabile del poliambulatorio di allergologia e immunologia del Centro Diagnostico Italiano di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno. Allora, per i casi difficili si apre una speranza. Sì, è una speranza più, direi più concreta. Certo. Quindi è sicuramente una rivoluzione da un punto di vista scientifico, ma anche pratico. Si tratta di utilizzare degli allergeni che sono degli allergeni ricombinanti. Cosa significa ricombinanti? Sono degli allergeni purissimi, che sono frutto di 20-30 anni di ricerca, e quindi noi possiamo identificare delle sostanze specifiche verso cui uno è allergico. Mentre prima, dottore, che cosa? Perché lei mi dice si tratta di una rivoluzione proprio perché noi possiamo basarci, possiamo utilizzare degli allergeni particolari. Prima che cosa utilizzavate? Gli estratti. Sì, quindi vengono utilizzati, continuano ad essere utilizzati, è possibile che nel corso dei prossimi anni vengano dismessi, perché cerchiamo sempre di fare delle diagnosi che sono più corrette, più precise, più mirate. Quindi un'allergia, una sostanza specifica che è responsabile di questa allergia. Facciamo un esempio, dottore. Beh, ad esempio l'allergia alle graminacee è sostenuta da molti allergeni, sono stati identificati come responsabili di allergie classiche alle graminacee almeno 12 allergeni, che prendono la numerazione da 1 a 12, e con questo noi possiamo verificare con gli allergeni ricombinanti ad esempio lo spettro specifico e preciso di ogni paziente. Possiamo anche allestire delle vaccinoterapie che sono più mirate, specifiche per quel caso, per il paziente. Dottore, quindi non è un test di screening? No. È un test per casi difficili? Possiamo... È un test per casi complessi, casi che ad esempio hanno avuto delle evoluzioni molto importanti negli anni. Noi sappiamo oggi che gli allergici fanno una marcia allergica, cominciano con pochissimi allergeni, poi questa sensibilizzazione si allarga sempre di più, probabilmente vengono coinvolti poi queste strutture che oggi conosciamo come essere i panallergeni, e la situazione diventa sempre più complessa, per cui un'allergia respiratoria, un'allergia cutanea, un'allergia alimentare. Ecco, questo test ci permette di utilizzare una lente di ingrandimento relativamente a questi pazienti, una lente di ingrandimento che altrimenti prima non avevamo assolutamente a disposizione. Dottor Tiri, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, spero di risentirla presto. Buona giornata, insomma. La ringrazio, arrivederci. Pronto soccorso. E torniamo a parlare di fumo in questa nostra puntata tormentone. Proprio ragione Fabrizio, che ci scrive: a forza di dire di smettere di fumare, di ripeterlo a intervalli regolari, dottor Boffi, è vero però questo, cioè un chiodo fisso, avete convinto anche me, adesso ho una nuova dipendenza, non posso fare a meno di cercare di convincere gli amici a seguire il mio esempio. Dimenticavo, sono in cima da un anno, paura di cadere giù? Nessuna. Quindi molto convinto. Fabrizio, voglio chiedere ai nostri ascoltatori a casa se ce l'avete fatta, dove siete in questo percorso che abbiamo un po' descritto, se all'inizio o a metà, se siete caduti, se siete in cima, se avete paura di rotolare giù. Chiamateci 800 24 00 24. Carmen Convito con noi, la dottoressa Sciossi, il nostro dottor Roberto Boffi, ma in linea abbiamo anche il professor Diego Fornasari, che è professore di farmacologia alla facoltà di medicina dell'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno. Non lo sento più. Professore? Pronto? Eccolo. Pronto. Professore, buongiorno. Non la sentivo più. Perfetto. Senta, smettere è difficile sempre, ma per alcuni sembra una missione quasi impossibile. Sicuramente la volontà ha un ruolo determinante, ma penso ci sia dell'altro. Ma sicuramente il problema dello smettere di fumare deve essere affrontato nella maniera più corretta, nel senso che per lungo tempo si è detto, si è pensato che il fumare fosse semplicemente un vizio. Invece in realtà il fumo è una tossicodipendenza che ci fa comportare addirittura in maniera contrastante rispetto ai nostri stessi interessi. Un esempio banale: tutti quanti oggi sanno perfettamente quali sono i danni da fumo, fumo, a carico dell'apparato respiratorio, a carico dell'apparato cardiovascolare, e ciò non di meno il fumatore continua a fumare, sapendo esattamente a che cosa va incontro. Allora c'è qualche cosa di perverso in tutto questo, e la perversione sta nel fatto che la tossicodipendenza, che soprattutto a causa della nicotina si instaura nel nostro sistema nervoso, ci fa comportare in maniera assolutamente irrazionale, ripeto, contrastante rispetto ai nostri stessi interessi. Dopodiché chiaramente ognuno di noi in questa tossicodipendenza è diverso, e quindi per alcuni è più difficile smettere di fumare, e come giustamente ha detto lei, la volontà è comunque un passaggio e uno strumento fondamentale per riuscirci. Poi naturalmente ci si può aiutare eventualmente anche con farmaci, ma questa non è la sede per discutere di questo. Anche se lei, essendo professore di farmacologia, sarebbe tentato nel farlo. Ma io ho un'altra domanda per lei, forse più difficile della prima. Perché è così facile ricominciare? Serve tanta fatica a smettere e basta un niente per ritrovarsi con la sigaretta tra le dita? È come se la partita non fosse mai chiusa definitivamente, il pericolo è sempre in agguato, dottore. Professore, mi scusi. Assolutamente sì, questo lo stiamo comprendendo abbastanza bene, comprendendo proprio il meccanismo con cui la nicotina instaura la sua dipendenza e la capacità che la nicotina ha di modificare le strutture neurali sul quale agisce. Sostanzialmente, in maniera molto semplificata, possiamo dire che esiste sempre una memoria della propria tossicodipendenza pregressa, per cui il fumatore è un soggetto che sarà a rischio per tutta la vita di ricominciare a fumare. Naturalmente questo rischio diminuisce progressivamente man mano che ci allontaniamo dall'ultima sigaretta, per cui chi ha smesso di fumare 6 mesi prima è ad altissimo rischio, chi ha smesso di fumare 5 anni prima è ancora a rischio, chi ha smesso di fumare da 20 anni chiaramente ha un rischio minore, ma comunque esistono casi di persone che hanno ripreso a fumare dopo 20 anni. È come se in qualche maniera, non in qualche maniera ma in maniera ben precisa, nel nostro cervello rimanga traccia del piacere che in qualche maniera la nicotina ci ha dato, e noi il piacere che naturalmente paghiamo duramente in termini di salute, e questa memoria rimane nel tempo. Quindi il fumatore di questo deve essere consapevole. Ripeto, è importante considerare il fumo di sigaretta come una tossicodipendenza con tutte le sue implicazioni. Soltanto così e con buona volontà possiamo provare appunto a allontanarci. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie anche a voi tutti per la chiarezza. Andiamo a Laura, che ci chiama da Firenze, 824 0024. Laura, buongiorno. Buongiorno. Devo dire. Da che parte sta? Mi dica a che punto è del nostro sentiero di montagna. Sono ricaduta molto e peggio. Però il problema, secondo me, quello mio, sì. È il fatto di ingrassare. Questo mi toglie tutta la forza iniziale. In 3 mesi, 4 mesi così, 3, 4, 5 chili che mi mandano. Insomma. E questo è un punto. Carmen, mi fanno crollare. Sì, poi uno può anche muoversi un po' di più, mangiare un po' di meno, ma Carmen, tu sei ingrassata? Io sì, 4 chili. No, lo dice, belli, sono 4 chili di salute, in fondo. Volevo sapere di Carmen Covito, ma non la sento. Ma allora, possiamo, dottor Boffi, mandare... Ci sono tanti messaggi che arrivano. Ad esempio, ho smesso, cellulite, grasso, chili di più, chili di meno. Insomma, smettere di fumare poi qualche difficoltà la crea, anche qualche problemino, un problema estetico, ma come nel caso di Laura, può in qualche modo farci... Ci sono anche dei miglioramenti estetici quando si smette di fumare, anche sulla cellulite e sulla pelle. Sulla pelle, anche sul seno, ad esempio, quindi si diventa tendenzialmente più sodi, ecco. Però l'aumento del peso effettivamente è un rischio da evitare quanto più possibile. Anche se devo dire che di fronte a un'epidemia, perché parliamo di una cosa, ricordiamoci, in termini di qualità e di quantità della vita, che condiziona come nessun'altra scelta di stile di vita, lo smette di fumare, quindi parliamo di una media di 10 anni meno di vita, quindi non una settimana, forse un compromesso di 1, 2, massimo 3 kg in più da poter poi smaltire nei mesi successivi, mi sembra un compromesso anche accettabile. Comunque ci sono degli studi che dimostrano che con una buona adeguamento del movimento e della dieta, nel 90% dei casi non si ingrassa più di 2 kg, e ci sono comunque dei farmaci, oltre che delle strategie alimentari adeguati per combattere un po' l'effetto anoressizzante della nicotina che viene bruscamente a mancare quando quindi si smette. Quindi lei mi sta dicendo che con la terapia ci possono, sostitutiva si può aiutare con la terapia sostitutiva nicotinica o anche lo stesso bupropione, che sono farmaci anoressizzanti. Non quindi si ingrassa? Si ingrassa meno. Si abitua al metabolismo a poco a fare a meno di questa sostanza che è la nicotina, che fa venire meno appetito e accelera il metabolismo dei grassi, per cui quando si smette di fumare, stabilendo la famosa data di cui dicevamo prima, il rischio è di avere un po' qualche problema, ma per 1, 2, 3 mesi al massimo. Dottoressa Schoss, non è un problema solo femminile, questo di aver paura di ingrassare se si spegne la sigaretta. Ma io ripeterei quello che ho detto prima. L'importante è che dentro di noi resti chiara la buona intenzione di fare qualcosa di buono per noi. Ma secondo me è molto importante essere informati davvero sui danni. Perché noi facciamo in fretta a dire, vabbè, sì, fa male. Sarebbe bene che chi decide di fumare, di smettere di fumare, non solo scelga la data, ma scelga anche di leggere qualcosa sui danni effettivi del fumo. Oppure di farsi accompagnare, dottor Boffi, ci sono i centri antifumo. Certo, l'unione fa la forza, diciamo. C'è un mix di supporto psicologico e clinico, di cui si lamentano molto i fumatori con cui parlo, che visito ogni giorno, è la loro lotta solitaria. Soprattutto, questo devo dire a malincuore, quando sono già ammalati, quando hanno già malattie come la bronchite cronica, non parliamo dei tumori, lei sa che io lavoro in un istituto di ricerca oncologica, ecco, vengono veramente troppo spesso abbandonati a loro stessi, e questo è profondamente sbagliato. Allora, io avrei Aurelio dalla provincia di Milano. Aurelio. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Abbiamo anche i mercati, quindi o la traghetto dopo i mercati o le chiedo di essere rapido, scelga lei. Sì, io sarò rapidissimo. Sì. Giustamente il fumo fa male, anzi malissimo. Cioè io suggerirei questo, visto che a livello mondiale stanno proponendo sigarette senza tabacco, cioè solo con nicotina o anche senza, come alternativa alle sigarette, così uno mantiene la gestualità. La gestualità, Aurelio, che manca. Bravo. Ecco. Dottor Boffi, una sigaretta che non sia una sigaretta. Ci sono già in commercio i cosiddetti inalatori. L'importante è che non siano cose che bruciano, ecco, anche cose elettroniche. Queste assolutamente sono delle bufale. Mi spiace dirlo, ma è così. Mentre ci sono dei prodotti terapeutici a base di nicotina che simulano, diciamo, la gestualità e la gratificazione orale a sigaretta, ma sono totalmente innocue, oltre che avere un effetto terapeutico che è doppio rispetto al placebo. Quindi farmaci anche simili alla sigaretta ci sono e si vendono in farmacia. Ah, scusate, la spengo subito. Sì, ma non lì, quello non è un portacenere. Ah, no? No. In fondo al corridoio, a destra. Vado. Occupato? Mi scusi, era solo per buttare una sigaretta. Paolo? Sì. Fammi fare un tiro. Ma non avevi smesso te? Sì, è che volevo fare una prova, no? Sì. Da Saturno contro una prova, e talvolta una prova può poi incastrarci. Noi torniamo con Saturno contro a parlare di fumo per convincere qualcuno di voi a smettere, dottor Boffi, però ne abbiamo convinti tanti. Sì, io anche vedo nel forum che a volte scrivono persone che hanno smesso sentendo la trasmissione, ecco. È scattato un trigger, inspiegabile. Ecco, ma questo non lo dico per dire siamo bravi, perché sono bravi loro, no. E la pazienza e la capacità anche il dottor Boffi come moderatore, ma per dire che, per riprendere un aspetto che lei aveva evidenziato, ed è la solitudine, tante volte ci si sente soli, mentre l'unione fa la forza, ci si dà una mano, dottor certo, Boffi. Assolutamente, poi costruire appunto questo percorso e trovarci un pochino anche dei piccoli spazi di felicità, ecco, perché a volte è una carezzina, un complimento. Ecco, e qua andiamo dalla dottoressa Schoss, insomma gratifichiamoci e facciamoci gratificare. Ma soprattutto, secondo me, quando noi affrontiamo una grande impresa come questa, perché smettere di fumare è veramente un'impresa. Dobbiamo essere molto gentili dentro di noi. Dobbiamo cercare di non essere troppo critici. Dobbiamo accettare i nostri limiti. Anche in questa cosa, per esempio, se ricadiamo e cerchiamo di mantenere un atteggiamento di coccola dentro di noi, dicendo, ok, questa volta è andata male, riproviamo. Se siamo in grado di non essere troppo duri, troppo possiamo rigidi. Riprovare. Carmen Covito, io no, ti avevo perso ma ti ho ritrovato, vero Carmen? Essere troppo gentili, ci andrei un po' piano, bisogna anche essere un po' aggressivi, non verso se stessi, non nel senso di attaccarsi, di colpevolizzarsi, eccetera, anzi le gratificazioni sono fondamentali, però dato che stiamo facendo qualcosa di molto importante, sì. Dobbiamo sentirci in diritto di essere assertivi, cioè appunto dichiarare al mondo io sto smettendo di fumare, appunto facendo sì che gli altri si rendano conto del nostro impegno, di quello che stiamo facendo, e che quindi ci aiutino. Andiamo a Isabella da Roma, vediamo se possiamo darle una mano a proposito di che gli altri ci devono in qualche modo aiutare. Isabella, buongiorno. Buongiorno. Io telefonavo perché ho smesso di fumare con la mia prima gravidanza nel 2003. E mio marito ha tentato in tantissimi modi ma non ci riesce, e un aspetto che ascoltavo adesso la signora Covito è quello che non mi coinvolge, cioè io mi accorgo che lui sta cercando di smettere perché trovo le gomme piuttosto che i cerotti e che lui è comunque molto nervoso, però non mi coinvolge, io non so come aiutarlo, cioè come appunto gratificarlo, se dovermi coinvolgere in questa sua battaglia oppure lasciarlo da solo. Insomma lui vuole giocarsi un po' la partita da solo. Faccio un piccolo giro di tavolo velocemente perché è già in linea con noi il professor Remuzzi. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Dottor Boffi, come si può aiutare Isabella a convincere il marito a giocare almeno un doppio? Beh, Isabella intanto l'ha aiutato già con l'esempio, smettendo di fumare e soprattutto non ricominciando dopo la gravidanza. Bravissima, perché molte noi donne smettiamo e poi ricominciamo. Esatto, tre quarti purtroppo delle neomamme fa così. E adesso soprattutto deve aiutarlo sopportandolo un po'. E questi magari... mariti si sopportano sempre un po'. Ecco, beh, vabbè, altrettanto, facendogli qualche complimentino ogni tanto, qualche regalino, perché insomma il marito risparmia e quindi la famiglia risparmia e sono soldi buttati al vento in meno, non fumare o fumare meno, e poi magari consigliandolo a farsi aiutare da personale competente, perché la moglie naturalmente, pur essendo un'ex fumatrice, non ha le competenze farmacologiche, psicologiche per aiutare evidentemente un forte fumatore come è il marito di Isabella. Perché insomma andare nei centri antifumo sarebbe semplice, ma non a tutti scatta questa molla, no, vero? Purtroppo direi quasi a nessuno. Intanto già i centri antifumo sono pochi. L'85% dei fumatori dichiara di esserci riuscito da solo o con magari così con gli amici, così assumendo magari delle medicine in maniera sbagliata o improvvisata, quindi ancora troppe poche persone si rivolgono al medico di famiglia o meglio al centro antifumo. Allora facciamo un appello, facciamo lavorare il dottor Boffi più di quanto ancora lavori. Fidatevi delle nostre poche possibilità, ma che ci sono reali, concrete, validate dalle linee guida della medicina, quindi degli strumenti efficaci più del 2-3 volte rispetto al placebo per aiutare i fumatori a smettere di fumare per sempre, quindi a un anno e oltre, ci sono, proviamoli. Proviamoli, insomma non ci facciamo mancare nulla. Professor Remuzzi, ritorno da lei perché lei nella puntata per l'ipertensione mi ha mandato in tilt i centralini quando ha detto che le persone che sono in cura con una terapia antipertensiva e che continuano a fumare dei benefici del farmaco il farmaco non funziona. E molti ipertesi ci hanno scritto, ma io fumo, ne fumo due, ne fumo tre, ma allora che cosa? Professore, lei... è fermo sulla sua... Sì, per la pressione e per i farmaci cardiovascolari, per i farmaci che si utilizzano per il cuore, normalmente è così, è inutile pretendere di avere un vantaggio o tutti i vantaggi che si possono avere dal farmaco se uno fuma. Questo è dimostrato molto bene. Il punto è che noi sappiamo, tutti sanno, che c'è la nicotina nelle sigarette c'è il catrame, però in realtà le sigarette contengono centinaia di sostanze, per esempio ci sono delle sostanze aromatiche policicliche, come dicono i biochimici, e queste per esempio interferiscono con la funzione di enzimi, sono proteine che servono per trasformare i farmaci nel nostro organismo. Quando noi prendiamo un farmaco per bocca, questo farmaco poi va incontro a una serie di trasformazioni prima di arrivare al prodotto finale, che è eventualmente efficace sull'organo su cui deve essere efficace. Ecco, questo processo di trasformazione subisce delle interferenze nel caso che uno fumi. E questo si applica a tanti altri farmaci, non solo ai farmaci per la pressione alta. Ad esempio, professore? Ma per esempio, non so quanti sanno che il fumo di sigaretta interferisce in modo importante con la maggior parte degli anestetici. Questa è una cosa molto ben conosciuta agli anestesisti, però quando noi fumiamo e poi abbiamo bisogno di una chirurgia, mettiamo in difficoltà un pochino gli anestesisti, perché la risposta del nostro organismo all'anestesia è diversa se uno fuma o se uno non fuma. Anche l'anestesia che facciamo dal dentista? Anche l'anestesia che facciamo dal dentista. Altri farmaci che sono influenzati dal fumo di sigaretta in modo estremamente importante sono tutti i farmaci che si utilizzano per i malati psichiatrici, tutti i farmaci cosiddetti psicotropi. Ecco, questi farmaci qua rappresentano una categoria di farmaci importante per essere influenzato dal fumo, perché molti pazienti psichiatrici fumano e sì. Molti sono statisticamente i pazienti che hanno una malattia della psiche sono più fumatori accaniti e fumano tante sigarette rispetto a chi non ha una malattia psichiatrica. Poi ci sono anche tante altre categorie di farmaci, per esempio la teofilina, la caffeina, l'allopurinolo, la pentazocina, l'estradiolo, tanti ormoni. Sono tutti farmaci influenzati dal fatto di fumare. Quindi meglio smettere, meglio non ricaderci, sarebbe meglio proprio non iniziare, eppure i ragazzi sempre più giovani iniziano a fumare. Professor Remuzzi, io la saluto perché so che lei deve scappare, ma le do appuntamento a domani perché per il nostro commento della settimana su un nuovo farmaco per il tumore alla prostata, ho guadagnato le pagine dei giornali, vorremmo capirne di più, così rispondiamo a molte mail di ascoltatori che ci hanno scritto per dire: ma funziona davvero, ma quando, come, perché? Per cui domani ci risentiamo. Benissimo. Grazie professore. Buona giornata. Paolo ci chiama da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Ho un po' di eco. Eccomi qua. Paolo, siamo in montagna, sento un eco. Ho spinto la radio. Magnifico. Allora, raccontiamoci tra di noi. Fuma, non fuma, smesso, ha ricominciato. Cosa fa Paolo da Bergamo? Io sono sulla montagna da 5 anni. Magnifico. Fumavo 2 pacchetti a mezzogiorno. Sì. Al sabato e domenica, perché ero più rilassato, ne fumavo 4. Ah, qui? 4. Cioè, sabato e la domenica, doppia razione. Sì, perché la giornata cominciava prima. Sì, allora aspetti che Peter mi dice di spegnere la radio. È spenta, è viva voce. È il viva voce, quello lì. Dovrebbe parlarci cheek to cheek. Allora, adesso quindi Paolo ha smesso 5 anni sull'incima alla montagna. Solo. Ecco, l'ha fatto all'improvviso? Sì, un giorno. In un giorno. Paolo, mi spiace, dobbiamo riprendere eventualmente il collegamento perché ci sentiamo troppo male. Succede anche così, dottoressa Schoss. L'ha detto anche lei. Magari ci si fissa una data, ma al momento può arrivare l'ispirazione e dire che cosa rappresenta. Io penso per me. Che questo nostro ascoltatore che fumava 2 pacchetti e mezzo al giorno si sia sentito dire spesso: ma quanto fumi? Cioè, sicuramente ci avrà pensato qualche volta prima. Poi un giorno, tac, viene il momento e si comincia, ma sicuramente 2 pacchetti e mezzo al giorno. Però sì, spesso, dottor Boffi, sono più determinati quelli come la nostra amica Carmen, che fumavano tante sigarette e poi dall'oggi al domani decidono di chiudere e chiudono, piuttosto che quelli che sfumacchiano e dicono: vabbè, ma 3, ma 5, ma se nel fine settimana non fumo. Diamo subito la parola a Davide che ci chiama da Rimini, 800 24 0024. Il nostro ambulatorio, il nostro centro antifumo è aperto a tutti, e anche a chi manda dei messaggi al 349 238 6666 che leggeremo tra poco. Davide, buongiorno. Ah, buongiorno, buongiorno a tutti, i suoi ospiti, grazie per avermi richiamato. Io volevo parlare della mia esperienza. Io Bene. Ho incominciato a fumare a 14 anni, quindi tra la terza media e la prima liceo. Ho incominciato a fumare subito tantissimo, cioè io fumavo già a 15 anni più di un pacco di sigarette, sono arrivato a due e ho fumato fino a dicembre dell'anno scorso. Improvvisamente il 26 dicembre io ho deciso di smettere, d'amblè, e per 4 mesi, quindi diciamo fino a fine aprile, non c'è stato nessun problema. Sì. Da inizio di maggio io continuo, io in questo momento sono in macchina, sto lavorando e ho una parte del mio cervello che è occupata a pensare, però potresti fumarne una, potresti ricominciare. Questa è una cosa stranissima, perché credo che la parte fisica della dipendenza di averla superata in 4 mesi. Per cui questa era la prima cosa. Poi io soffro, lei parlava prima di ipertensione, io soffro di ipertensione arteriosa, mi curo da 3 anni con farmaci. Sì. E mio padre è morto di complicazioni dovute al fumo, aveva una BPCO che l'ha portato 3 anni fa a morire. Quindi volevo parlare della mia esperienza, del fatto che si può si smettere all'improvviso anche fumando tantissimo, ma che è una cosa che poi ritorna, non so, nella mia testa penso, riuscirò mai a liberarmi dell'idea della sigaretta, non tanto della... Sai che Davide ci ha scritto, Angelo, un sms abbastanza lungo in cui dice che ha smesso da 6 anni, ma lui continua tutte le sere a sognare di accendersi una sigaretta dietro l'altra. Il nostro farmacologo ci diceva che in realtà questa memoria della dipendenza rimane un po' tutta la vita, ma che comunque più ci si allontana dalla data dell'accesso del fumo più si è al riparo. Ma il dottor Boffi è qua per raccontare, soprattutto dare una mano a Davide. Certo, lo daremo assolutamente. Tanto non è passato ancora un anno, per cui 4 mesi per alcune persone, direi per la maggior parte degli ex fumatori, è un periodo sufficiente, ma non per tutti, per potersi considerare completamente fuori dalla dipendenza. E poi abbiamo già definito il tabagismo una patologia recidivante, un po' come esempio che faccio, come saper andare in bicicletta. Quindi l'importante è che non diventi un incubo, una cosa che ogni giorno ci tormenta, ma questa esempio, voglia di fumare. Davide, ma se ogni tanto... lei ha smesso di fumare da solo, no? Ecco, sì, improvvisamente. Improvvisamente. Allora, però questa tentazione è un po', no? Come un serpentone che si insinua, sì, e ti tenta, sì, no? Un po'. Ecco, allora io voglio chiedere, dottor Boffi, concretamente, se Davide si materializzasse qua, lei che cosa gli dice? Certo, no. Faccia un supporto psicologico? Un Davide che viene da me al centro antifumo dell'Istituto dei Tumori o in un altro centro antifumo come il nostro, viene considerato una persona che sta smettendo o che ha smesso recentemente, quindi da 4 mesi, e che si può ancora benissimo supportare a livello psicologico o anche farmacologico come se avesse smesso il giorno prima. Vengo a questa domanda, Davide, perché volevo chiedere, se uno smette, ce la fa da solo, poi come Davide dopo 4-5 mesi vede nel nostro sentire, abbiamo detto, quelli che sono stanchi pensano di non farcela ma vogliono tenere duro, la terapia nicotinica sostitutiva, ma la puoi nicotinica fare anche dopo 4 si mesi può anche assolutamente fare dopo che uno non assolutamente ha... meglio sotto controllo medico. Davide, che dice? I miei problemi di ipertensione e farmaci che prendo in quantità insomma notevole, comunque non con dosaggi non bassi, io prendo beta bloccanti, calcio antagonisti, però vede che ha fatto bene, perché in questo modo, senza il fumo, i suoi farmaci, certo, possono comunque fare il loro lavoro. Ribadisco, meglio sotto controllo medico. Si possono benissimo prendere la terapia nicotinica o anche la varenicline, pur essendo cardiopatici. Dottoressa Schoss, forse ha un regalo da fare a Davide e alle persone che come lui vogliono continuare e hanno bisogno di quel "dai che sei bravo, siamo con te". Davide lo possiamo invitare anche nel nostro forum, ma soprattutto per quelli che non vogliono prendere i farmaci in più, perché come lui ne sta già prendendo troppi, io proporrei di imparare una tecnica di rilassamento. Per esempio, adesso Davide è in macchina, seduto, chiuda un momento gli occhi e provi a portare l'attenzione... Prima si ferma. Meglio. Ah beh, sì, certamente. Perché sennò qua è una strada. Comunque, provi a portare l'attenzione all'aria che entra e che esce dal naso. senza criticarsi, senza giudicare, sentire l'aria che entra e che esce dal naso. Sembra una stupidaggine, ma noi possiamo ogni tanto fermarci e provare a farlo. Se portiamo l'attenzione all'aria che entra e che esce dal naso, non possiamo sentire e pensare, cioè non possiamo portare l'attenzione al pensiero che abbiamo nella mente. Quindi questa piccola tecnica, che in realtà non è una mia invenzione, ma si tratta di cose molto antiche che hanno attraversato la storia degli umani, hanno 2000-3000 anni queste cose, quindi una certa validità ce l'hanno. Provate a farlo. Ci sono anche delle possibilità di sentire una musica rilassante, ma proprio portare l'attenzione al respiro, senza nient'altro, portare l'attenzione al respiro. Allora, Davide, si concentri sul respiro, è una tecnica che possiamo, ce l'abbiamo sempre lì a disposizione. Mi dicono che devo già salutare, quindi saluto Carmen Covito. Arrivederci, spero che mi abbiate sentito un po'. Grazie Carmen, io consiglio sempre la lettura del libro di Carmen, perché devo dire che proprio un aiuto, L'arte di smettere di fumare controvoglia. Abbiamo anche un altro libro da consigliare in chiusura, è il libro che il dottor Boffi ha scritto con Donatella Barus, che si chiama Spegnila, dottor Boffi, anche lì ci sono tante storie da cui prendere esempio. Esatto. Dottoressa Schoss, grazie, proveremo a respirare. Vi saluto, vi do appuntamento come sempre a domani dopo il GR delle 11. Se avete bisogno di una mano, il nostro forum Centri Antifumo sono sparsi in tutta Italia. La posta di essere benessere @radio24.it. Vi aspettiamo.